noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. My past, my present, my future, my life. Catrema, la battuta di questo calcio d'angolo, pallone che filtra, Puccioni anticipato, Skriniar, gol dell'ex, D'Ambrogio col velo, Vesino in mezzo, colpo di testa di Silvestri, Icardi, 2-0! Palla verticale per Perisic, dentro Icardi, 3-0 Inter, si volta a guardare l'assistente, posizione regolare, 3-0. Stasera abbiamo avuto fortuna, ma molta anche, veramente, perché se guardate bene un paio di tiri sarebbero finiti in fallo laterale da quell'altra parte, poi hanno preso la ventata e sono finiti sul palo, per cui il fatto che siano finiti sul palo poi dà possibilità a voi di dire che siamo stati sfortunati, mentre non è così, è così. Ancora possesso per la Samp con Quagliarella, pallone morbido in mezzo a cercare il 3-1, eccolo qui il gol di Konecki. Insiste ancora la Samp che prova a chiudere in avanti questo match. Pratt pensa al cross, palla dentro, colpo di testa, 3-2. È stato duro per l'Inter, gli ultimi, se ci fossero stati altri 5-10 minuti la Samp stava crescendo, abbiamo creato più di una preoccupazione, non riuscivano più a partire, lui ha avvertito questa paura di non vincere, perché poi l'Inter ha avuto paura di vincere. Inter-Sampdoria, primato della 10ª giornata, raccontata ieri sera da Pierluigi Pardo e anche da noi, dallo stesso Pierluigi Pardo, abbiamo usato la tua voce, grazie Pier. Dov'è? Eccoci, come ciao. Va? Bene. No, sì, ci sono, eccomi qua. Senti, bene? Benissimo, Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, il Beck, Evaristo Beccalossi, non poteva mancare oggi. Ciao Beck. Ciao, buongiorno, scusa un attimo, che mi può riportare indietro, tenere in casa due penne al pomodoro, grazie, che le prendo dopo, sono in collegamento con i miei amici. Radio 24. Anche per... Ah sì, eccoci, ciao, buongiorno. Anch'io, voglio anch'io, Beck. No, sono al Parco di Mostri di appuntamento, quindi pensavo a voi e sono felice. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Salutate la capolista. Sì, quanto tempo è che non eri lì? Da quanto tempo? Non ti ricordi neanche più? Giocavi ancora, perso, forse? Ho perso conto, no dai, però bello. Bella anche la partita ieri, perché l'ultima mezz'ora, certo un po', però primo tempo, secondo me, a parte i 10 minuti iniziali della Samp, lì ho giocato bene, insomma, tre gol, tre pari, occasioni da gol. Bene, non me l'aspettavo questa grande Spalletti. No, poi ha soddisfatto, come dice il Beck, speriamo si senta meglio tra poco. Ha soddisfatto anche gli appassionati di estetica, no? Che va molto di moda in questo periodo, Pier. Sì, ha giocato bene. L'Inter ha giocato molto bene ieri, mi ha dato per 60 minuti, per un'oretta, diciamo, fra il decimo e il settantesimo, la sensazione di essere veramente vicina a quel punto. Sai, sono settimane che dico che se l'Inter, visto che non ha le coppe, cresce dal punto di vista del rendimento e della qualità del gioco, può avvicinarsi molto a qualsiasi traguardo in campionato. E ieri è stata forse la prima volta, in qualche modo anche a Napoli, ma è stata forse la prima volta che ha dato veramente questa sensazione. Poi ci sono stati 20 minuti finali abbastanza sconcertanti, nei quali comunque l'Inter ha avuto le palle gol anche per chiuderla. E insomma, il pareggio sarebbe stato troppo. L'Inter ha preso tre pali, ha strameritato di vincere ieri sera, non c'è discussione. Però insomma, quelle due amnesie fanno un po' comunque ragionare. Magari saranno utili, perché mi dicono che Spalletti è rimasto lungamente nello spogliatoio, quindi sì. Forse alla fine è stato anche utile. Fuori classe dell'Inter, Spalletti, il vero fuori classe dell'Inter. Poi ce ne sono degli altri, perché Icardi, te lo regalo, Beck, uno che fa gol ogni volta che ha il pallone, come in questo momento, avrebbe fatto le fortune di Beccalossi. E quanti palloni riusciva a dargli? Tre volte avevamo commentato, ma io ero uno di quelli, non mi vergogno a dirlo, cioè tutti a dire Mauro deve partecipare di più con la squadra, è uno che ha margini di miglioramento, però nell'ultimo periodo, quando uno prende tre palloni e fa tre gol, la domanda è, gli dico stai lì e metto la squadra e dei giocatori a disposizione di Cardi, perché se gli dai 7-8 palle gol, questo qua Ogni volta che prende gol che arriva sbatte dentro, caccia dentro, quindi va sfatata anche quella cosa che dicevamo, sì, non partecipa poco al gioco di squadra, non rientra, no, stai là, basta che fai gol, quindi ragiono al contrario. Un po' come Altobelli, eh? Spillo, sì, dai, ovviamente anni, diverse caratteristiche. Abbiamo fatto dei bei anni, adesso pensiamo al futuro. È bello stare in testa, però, ragazzi, non ero più abituato. Ma di una cosa agli interisti. Aspetta, piedi per terra, vabbè, questo vale per tutti. L'Inter può vincere lo scudetto? Può pensare allo scudetto? Non fare gli scongiuri, non fare lo scaramantico? No, vabbè, tanto mi sono già toccato, non sì, mi lo so. No, ma non è quello, è bello divertirsi perché credo, e questo è il mio pensiero, insomma, che Juve e Napoli abbiano qualcosa in più. E come obiettivo, io ti ripeto, metterei la firma in Champions League. Però questa grande partenza, questo grande entusiasmo che c'è, può essere una scheggia impazzita, però è sbagliato dire che sei pronto per lottare per lo scudetto. Questo è sbagliato, perché magari poi arrivi terzo, secondo, riusciamo a far passare che non è stato un campionato positivo perché non si è vinto il campionato. Credo che la realtà lo sia bella. Però insomma, se fai lottare per lo scudetto non vuol dire vincere lo scudetto. Se arrivi secondo, arrivi terzo, hai fatto un gran campionato, bello, non hai la pressione, non sì, hai la pressione, se arrivi quarto e ti fai sei mesi, sì certo, Pier. La mettiamo con la critica più ricorrente anche da parte nostra, Pierluigi, su un Inter che ripetiamo è una signora squadra, è diventata una signora squadra, ma è corta, centrale di difesa, la qualità davanti, perché questi sono mesi che parliamo di questi limiti. La mettiamo che finché Evaristo tocca il piatto delle penne, tocca ferro, che finché non ci sono problemi di infortuni e squalifiche è quasi un dettaglio. Spalletti continua a ruotare pochissimo i giocatori, 14 titolari soltanto dall'inizio della stagione, la stessa squadra, la stessa formazione titolare nel derby contro il Napoli ieri sera, insomma, less is more, no? E no, ma guarda che secondo me il trucco è quello, ma questo lo aiuta. Secondo me il segreto è quello. E beh, se devi costruire. Sì, ma secondo me un grande centrale in difesa in più gli avrebbe fatto piacere, però sicuramente nel processo di semplificazione, che secondo me è il merito principale di Spalletti, cioè le due cose che Spalletti ha fatto rispetto a prima sono che questa squadra gioca semplice e che c'è una motivazione diversa rispetto a prima, quindi mentalità, aspetto psicologico e aspetto tattico. Ha fatto queste due cose, sicuramente il fatto di non aver avuto un cambiamento di rosa clamoroso, simile, tanto per essere chiari, a quello che ha avuto Montella, in qualche modo lo ha aiutato. No, secondo me, è l'ultima cosa che chiedo a Beccalossi, prima di lasciarlo alle penne al pomodoro, avrebbe dovuto fare così, dovrebbe fare così anche Montella. In difficoltà, devi costruire, semplifica. Scegli i tuoi titolari, scegli un modulo e vai con quello. Esatto, deve tornare a fare il Montella che era spregiudicato, senza troppi ragionamenti, l'impressione che faccia fatica a metterli insieme. Però ho sentito le ultime interviste e credo che questo l'abbia capito, perché quando tu spendi parecchi soldi anche per dei giocatori, secondo me il Milan ha fatto una buonissima campagna acquisti. La difficoltà è quella che traspare, che Vincenzo un po' di difficoltà ce l'abbia, quindi deve tornare spregiudicato come era prima, senza dire, anche fare delle vittime illustri, però trovare la giusta quadratura, perché il Milan può lottare tranquillamente per un posto di Champions. Questo è il mio pensiero. Grazie Beck. Ciao ragazzi, buon appetito. Ciao. Buon appetito Evaristo Beccalossi, ci fermiamo per il traffico invece e poi torniamo su uno degli argomenti della settimana. Abbiamo parlato di Spalletti, valore aggiunto dell'Inter, l'uomo che ha trasformato l'Inter, stiamo parlando di Montella invece, l'uomo sul banco degli imputati insieme al suo numero 19 che non porterà stasera naturalmente, allora, essendo squalificato, la fascia di capitano. Traffico. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Tutti convocati. Vi lancio il numero verde 800 24 0024 per intervenire. e saluto, ringrazio Giampaolo Montali, ora direttore del progetto Riders Cup, come ben sapete, ma enorme allenatore, produttore di libri cult e fine gestore di menti umane, dirigente calcistico. Sì, dirigente calcistico. Dirigente calcistico. Tutto. Non fatto hai tutto Montali. Beh, comunque buongiorno, ciao ragazzi, Giampaolo. Buongiorno. Tu hai strusciato Spalletti, se posso, dal punto di vista temporale, giusto? Sì, ci siamo proprio strusciati, perché quando io sono arrivato, lui è andato via, tra l'altro avevamo fatto una scommessa che lui ha perso e mi deve ancora pagare, non ho ancora pagato, però lo aspetto al varco. Attenzione. La vita è una ruota che gira. Sei? Bene, bene, molto bene, molto bene. La reduce da questi Open d'Italia, da questi 4 giorni fatti a Parigi, per l'anno che manca la Ryder Cup in Francia, molto interessante. Adesso cominciamo a lavorare sull'operatività del progetto. Senti, ma voi come state? Bene? Noi siamo in grandi condizioni. Noi siamo bene. Sì. Io l'ultima volta che ho visto Montali stavo in campo con Chicco Molinari e i 70.000, è stato bellissimo. Indovina dove stavo io invece, Calogna? Dove stavo io? Tu eri quel giorno... dove sono adesso, come al solito. Io però ho fatto il derby sempre qua, sempre. No, un vero successo d'Italia. Cesare Pavesi diceva che lavorare stanca, esatto. Spiegalo a Pardo, professore. Allora Spalletti, voglio farvi sentire questa voce di Spalletti. Roma fortissima, allenata bene, sarà là in fondo al campionato, state tranquilli. L'Inter non lo so, però non ci sarà tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. Dobbiamo trovare, non cercare, forse si trova, no, lo dobbiamo trovare il modo per vincere le partite. Questo è un estratto del pensiero spallettiano. Beh, Giampaolo, è lui il vero conduttore di questa Inter, il vero fuoriclasse di questa squadra, anche dal punto di vista emotivo, sei d'accordo? Sì, devo dire che si è calato in una parte veramente con quello che io chiamo lo spirito del sarto, cioè lui è arrivato all'Inter, ha trovato una squadra e sta disegnando un abito perfetto per le risorse che ha a disposizione, per i giocatori che ha, lo sta facendo bene, molto bene. A me la cosa che mi è piaciuta più di tutti ieri sera, dopo la partita, dopo quel recupero della Sampdoria, dopo aver vinto in extremis, quando adesso alla fine ci è creato un po' di fiducia, vedere lui che girava per il campo dei suoi giocatori e gli diceva bravi, bravi, bravi lo stesso, e era lui a rincuorarli. Ecco, questo Spalletti secondo me è uno Spalletti che si è veramente calato nella parte ed è concentrato solo sull'aspetto sportivo, che è sicuramente la cosa più importante per lui ed è quello che gli farà ottenere il risultato. Non deve perdere energie verso l'esterno a parlare di altre cose che non siano solo la gestione dell'aspetto sportivo. Lui lì è il numero uno ed è bravissimo. Beh, però mi sembra, Pier, che stia dando il suo anche dal punto di vista comunicativo, no? Anche quel ruolo lì lo sta facendo bene. Ma poi un altro aspetto, Pierluigi, la dirigenza dell'Inter si è un po' defilata, raramente senti parlare altri che non siano Spalletti. Ha assunto questo ruolo un po' murignano, ti torna? Ma sì, mi torna, ma guarda, io non credo che sia un'eresia, nel senso che nel calcio inglese, che comunque è uno dei modelli sicuramente più virtuosi, la figura del manager è una figura che lavora a 360 gradi, allena la squadra in campo, fa il mercato, ci mette la faccia quando c'è da dire qualcosa, per cui non è per forza sinonimo di società vincente il fatto che ci sia una suddivisione di ruoli così, così importante. Ci sono degli allenatori, dei manager, e insomma Giampaolo è sicuramente uno che di leadership sa tanto, che hanno una capacità talmente grande, una capacità di comunicazione, una capacità di rapporto all'interno dello spogliatoio e anche all'esterno, che gli fa inevitabilmente prendere una preponderanza rispetto ad altri aspetti del club. Spalletti mi sembra che sia in questa direzione qui, e a me sta piacendo a 360 gradi, mi sembra che stia anche catturando, poi certo i risultati incidono, i favori e le simpatie del popolo nerazzurro, e secondo me insomma è abbastanza normale, abbastanza logico che sia così. Il popolo dell'Inter aveva bisogno di un uomo forte, e secondo me lo sta trovando. Volevo chiedergli di Bonucci che idea si è fatto, insomma 2 giorni fa abbiamo sentito il motivatore, stiamo parlando di un grande giocatore, questo è indiscutibile, di un giocatore al quale forse, questo era anche in qualche modo quello che il suo mental coach diceva, sono state date troppe responsabilità, cioè per un campione c'è un limite di responsabilità? Guarda, intanto su Bonucci bisogna fare un'analisi molto, molto oggettiva, cioè la prima secondo me è quella del contesto dove si è venuto a trovare. Lui veniva da un ambiente vincente, e tra gli ambienti vincenti e gli ambienti perdenti c'è una differenza sostanziale, ed è il clima che si respira e soprattutto la metodologia di governance che c'è nelle squadre vincenti. Quindi lui si è venuto a trovare una società completamente diversa, quindi il contesto dove sta lavorando Bonucci non è la Juventus. La Juventus è un contesto dove c'è una società che ha una mentalità vincente molto chiara, precisa, ruoli definiti chiari e precisi, dove tutto è decodificato, ci sono regole cui tutti rispondono in maniera equa, e quindi già questo è una discriminante, cioè andare a lavorare in un ambiente da creare nuovo e completamente diverso, con un progetto tutto nuovo, già ti trovi in un contesto completamente diverso. Il secondo aspetto, secondo me, Bonucci si sta facendo tanti voli pindarici sugli aspetti psicologici, motivazionali. Il problema di Bonucci, secondo me, dal punto di vista tecnico, è che sta giocando male tecnicamente in campo. Non so se questo dipende dal modulo di gioco, da come sono disposti in campo i giocatori, ma lui sta giocando male tecnicamente. Quindi questa è una situazione che è assolutamente rimediabile e recuperabile. Sì, anche fisicamente non mi sembra stia benissimo. Esatto. L'ho visto in condizioni migliori. Ci sono casi, Giampaolo, nella tua vita di coach o anche di dirigente, di giocatori straordinari che però se gli viene affidato, perché questo è un po' il discorso che faceva Ferrarini, poi sì, giusto o sbagliato che sia, sappiamo che c'è stato quel tweet di Bonucci, però comunque Ferrarini è uno che lo conosce, cioè di giocatori che sono dal punto di vista tecnico dei leader assoluti, che quindi inseriti in un certo ingranaggio fanno cose straordinarie, e di questo stiamo parlando perché Bonucci è un grandissimo, e che però poi se gli dai una responsabilità troppo grande e rischiano di andare in confusione, anche se Bonucci, occhio e croce, dall'esterno mi sembra uno che questa leadership ce l'ha naturalmente, l'ho sempre detto, quindi non è che adesso mi posso contraddire, cioè mi sembra che lui questo ruolo un po' quasi l'abbia cercato. Esatto, sì, diciamo, ci ha messo la faccia. Ma lui secondo me andando al Milan ha voluto dare una svolta completamente diversa alla sua carriera, cioè prima era un giocatore in uno spogliatoio dove c'erano forti leadership. La grande leadership che c'è all'interno spogliatoio è sicuramente la Juventus, quella di Buffon, un giocatore che è leader in campo e non è anche fuori dal punto di vista della comunicazione. Secondo me lui, andando al Milan, ha voluto provare a fare un salto di qualità, quindi questa non è una cosa che nasce improvvisamente così da un giorno all'altro, e questa cosa è una cosa che va studiata, preparata e deve essere supportata anche dalla società. Secondo me una mentalità vincente in un club si forma o si crea anche da questo punto di vista, cioè andando a definire ruoli e competenze a persone che ne hanno la capacità subito immediata di poterlo fare. Quindi lui probabilmente da questo punto di vista è nelle condizioni di dover fare un cambio radicale di impostazione sua personale, di comportamento, e probabilmente si trova a lavorare in un ambiente, in un settore dove per lui sono cose nuove e non è abituato a fare queste cose, e quindi si sta accorgendo probabilmente che non tutto va come lui voleva o pensava che andasse, e quindi ci vuole pazienza da parte della società, lo deve supportare. Devo dire anche che le ultime vicissitudini delle società, questi scambi di comunicazione tra l'allenatore, il direttore sportivo e anche l'amministratore delegato, a volte non fanno benissimo in quella che è lo svolgimento di un lavoro, di un progetto come questo. Quindi molta coerenza, e lui soprattutto deve avere l'umiltà, ma soprattutto la pazienza di saper aspettare, perché se questo è il ruolo che lui vuole sperare di fare, deve lavorare di più. Però io non di tempo, certo, di lavoro. Deve lavorare, deve impegnarsi, e poi devi diventare, vedi, leader. Tu diventi un leadership quando sei un esempio, diventi un modello. Il primo passaggio per un giocatore di calcio è essere un modello in campo tecnicamente. Tu come fai ad avere appeal sul resto della squadra se in campo sbagli dei gesti tecnici banali, o fai un errore come ha fatto l'ultima partita, sbagli una diagonale? Lì non lo diventi più. Ti faccio un esempio: io ho lavorato 3 anni alla Roma e ero il direttore generale con Francesco Totti. Francesco Totti non è uno che nello spogliatoio parla moltissimo, non parla quasi mai, parla poco, ma Francesco Totti è una leadership fortissima perché è un esempio continuo. Esempio come? Nell'arrivare prima sempre agli allenamenti, nel lavorare sempre al 100%, nel campo di fare sempre la cosa giusta. Quindi ognuno ha un modello comportamentale e un suo profilo di leadership, e lui probabilmente Bonucci lo deve trovare. Certo, allora ultima battuta con Giampaolo Montali andiamo in discarica con i piani bassissimi. il caso più schifoso della settimana che conoscete, sì, quello di Anna Frank. C'è stata questa scivolata, mancava solo questa, di Lotito. Per chi c'era più ci sarà. Non era più. Non fanno un cazzo che sono più. Pausa sceneggiata, caro, audio rubato, si sente quasi nulla, però quella nama fasta sceneggiata nella giornata di ieri, mentre stava andando dove stava andando e dove voi sapete, Pardo. Sì. Ci mancava pure questo. Sì, la vicenda peggiora di ora in ora, francamente. Io, sì, la mia unica speranza è che sia veramente un punto, si dice, si tocca il fondo, sia un punto per ripartire tutti e in tutte le tifoserie, anche perché poi insomma ci sono state anche in queste ore da parte di altre tifoserie scritte, insomma, cose non piacevoli. Quindi il tema è generale ed è un tema che riguarda il rispetto degli altri, punto. E questo vale ovviamente per le religioni, vale per le etnie, vale per i giocatori di colore, vale per la discriminazione territoriale, della quale si parlava molto un paio d'anni fa, poi gli strumenti che sono stati provati sembravano quasi incentivarla e favorire ma questo è il punto. Però io c'è ancora, perché i gol li sentiamo a pensare, fanno schifo. La gira Montali, che poi salutiamo, Giampaolo, io continuo a pensare che l'effetto eco che dai a questi è ciò che cercano. È chiaro che non si può star zitti, però bisogna trovare una misura e rendersi conto pure di questo, perché non educhiamo quelli già educati, quelli che sanno chi è Anna Frank, vero Mihajlovic, che sanno chi è Anna Frank come tutte le persone normali, civili e istruite di questo mondo. Stiamo parlando invece con quelli che stanno a contare, ripeto, lo spazio che rubano alle radio, ai giornali e alle televisioni. Coach, ma guarda, sono un grande imbarazzo, perché non sapevo di questo audio di Lotito, lo sento adesso, un grande imbarazzo a commentare una cosa di questo tipo, perché come in tutte le cose, come in tutte le società, nelle aziende, nelle organizzazioni, cioè il capo è quello che deve dare l'esempio, cioè che credibilità dai tu, anche se fai qualunque mossa che tu fai, dopo successivamente perde di credibilità. Allora io dico solo una cosa a Lotito, cioè Lotito è stato bravissimo a recuperare una situazione di una Lazio che era veramente messa malissimo, lì allo sbando. È stato duro anche con una frangia della tifoseria, in certi momenti vive sotto scorta proprio alcune cose, ma perché anche su questo fattore, su questo argomento che secondo me è centrale ed è strategico nella vita culturale e non soltanto sportiva di questo paese, prende una posizione forte, decisa e precisa. Sono veramente in imbarazzo ed è imbarazzante secondo me la situazione. Anche se sugli audio rubati poi ci sarebbe da aprire un altro tipo di discorso, una casistica, però così funziona. Grazie coach. Ciao Giampaolo. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. A presto. Ciao Giampaolo Montali. Ci vediamo per la borsa, torniamo, arriverà Belinazzo, parliamo di questo e di altri temi. 800 24 00 24 per intervenire. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Dal piano di sopra ci ha raggiunto il professor Marco Belinazzo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Con cui abbiamo diversi argomenti di cui discutere, assemblea degli azionisti della Juventus ieri, che ha fatto scalpone anche per certe dichiarazioni che non riguardano esattamente economia e finanza, ma altre cose, cioè rapporti tra il presidente Agnelli e Conte. Però prima Ernesto da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una provocazione un accento su Spalletti, che mi sembra venga pontificato quantomeno con tempi sbagliati, perché l'anno scorso con una squadra che ha, a mio modo di vedere, la seconda rosa del campionato, è andato fuori ai preliminari di Champions con il Porto, è andato fuori prendendo 4 pere in casa con il Lione, in Europa League e ha perso tutti e due i derby di Coppa Italia. Quindi io non so di quale tipo di onda mediatica usufruisca adesso Spalletti, mi chiedo questo. Cosa? Che lei dice che Spalletti l'anno scorso ha fatto... Come mai sento parlare di no, vabbè, non so che dente avvelenato abbia lei con, nei confronti di Spalletti. L'anno scorso Spalletti quanto ha fatto detto... 26 punti in 10 partite. No, mi sembra abbastanza. Una squadra che per 8 undicesimi è la stessa dell'anno scorso. Comunque, insomma, ha fatto un mercato che sembrava, non dico deludente, ma ordinario. Quindi questo è già un primo elemento. Quanto alla stagione scorsa e all'anno e mezzo che ha vissuto alla Roma, sicuramente l'abbiamo detto mille volte... l'anno scorso le coppe, nelle coppe ha fallito, certo, non c'è un dettaglio da nascondere, certo. Però insomma ha anche chiuso al secondo posto un campionato dove non so se fosse la seconda rosa della Serie A, quindi e comunque se era la seconda rosa della Serie A ha fatto il suo, è stata positiva, certo, no? Certo. Insomma, no, se... non ha lavorato male alla Roma, ha avuto diverse problematiche da risolvere, le ha risolte un po' a modo suo, cioè anche lui prendendosi responsabilità pure mediatiche. Intanto tu sai, Pierluigi, che Belinazzo ha detto meno male c'è anche l'Inter, ci tolgono pressione al suo Napoli naturalmente e adesso l'Inter è favorita per lo scudetto. Beh, ovviamente naturalmente non ci crede neanche lui, al no? Primo posto c'è la Juve, insomma c'è la Lazio, sì, poi e basta, c'è anche il Milan, sono queste. Beh, il Milan meno, fa un po' fatica, no? No, ma anche perché la proiezione dell'andamento delle prime in classifica, Lazio compresa, se dovessero andare così fino alla fine si parlerebbe di 104-105 punti, quindi il Milan non, la Champions League la vede, la zona Champions League la vede col binocolo. Intanto non credo andranno avanti di questo passo, però questo è un segno di debolezza certamente del nostro campionato. Allora, sentiamo la battuta di Agnelli ieri riferita ad Antonio Conte. Inoltre vorrei anche spendere una parola al mister Allegri, perché è stato grazie alla sua capacità e alla sua caparbietà di portare avanti un lavoro che per altri sembrava terminato. Un lavoro che per altri sembrava terminato. Mi sembra una di... è chiaro, è una... puntura di spillo ma anche di una certa eleganza. Conte invece, bam, nella vita non si finisce mai di conoscere le persone, tre puntini, a volte basterebbe soltanto un minimo di riconoscenza, punto, e di maturità, punto. Questo il tweet di Antonio Conte. Che dite, ragazzi? Pardon? Chi parte? Ma no, che diciamo la puntura di spillo, diciamo, di Agnelli c'era, certo. Secondo me, parte al di là del fatto che il grosso di quella frase lì, che io condivido al 100%, è la prima parte. Una giusta sottolineatura del lavoro di Allegri, perché Allegri veramente merita, secondo me, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, più complimenti di quelli che mediamente riceve. Allegri è uno che alla Juve ha continuato a vincere, ha vinto altri tre scudetti e li ha impreziositi con due finali di Champions League. E arrivare in finale di Champions League non è un dettaglio. Ah no, tutt'altro. Non è una così. Tutt'altro. Arrivare in finale di Champions League significa soldi, significa ranking, significa credibilità internazionale, significa che se vendi un giocatore lo vendi sicuramente a un prezzo più alto, perché ha fatto evidentemente cose che alzano il prezzo. E poi, insomma, significa anche andare avanti. Lo spirito dello sport è andare avanti. Mi rendo conto che la medaglia d'argento non ha lo stesso fascino della medaglia d'oro, ci mancherebbe però altro. È un grande risultato sportivo. Poi se le medaglie d'argento cominciano ad essere tante, poi ti rode pure un po', e lo capisco perfettamente, però... e capisco anche che chi gufa legittimamente sia felice che perdi la finale, però sei arrivato in finale, è meglio arrivare in finale che uscire però, gli ottavi. No? Scusami, però giusto per mettere sul tavolo un altro elemento di discussione, le rose della Juventus di Conte erano migliori o peggiori di quelle della Juventus di Allegri? Diverse, Marco. Conte, la prima chiaramente era inferiore a quella del Milan. Conte ha avuto un grande merito di cominciare a vincere. È una discussione che nel calcio, per esempio, il solito tema sacchi capello per quanto riguarda il Milan. È più difficile cominciare a vincere e quindi creare qualcosa o continuare a vincere? Forse è più difficile cominciare, cioè io non credo che i meriti di Conte qualcuno glieli possa togliere. Io ero inviato per Premium, per Mediaset, quell'estate lì a Bardonecchia, nell'anno del ritiro del primo anno di Conte. Insomma, se quell'estate lì avessero detto ai tifosi della Juve, ma anche ai non tifosi della Juve, che la Juve avrebbe vinto 6 scudetti di fila, gli avrebbero preso in faccia, qualcuno avrebbe pensato a un fenomeno di ubriachezza. Quindi questo è il punto di partenza. Conte ha avuto un merito enorme, nessuno lo può discutere, però anche continuare a vincere non è facile per niente. Bisogna gestire le cose con grande intelligenza, ma d'altra parte non scopriamo niente di nuovo se diciamo, ripetiamo e ricordiamo che il presidente della Juventus e il suo ex allenatore non si amavano più così tanto da un pezzo prima del divorzio. Beh, ricordiamo anche come Conte è andato via, no? In quale momento e quale difficoltà ha creato, diciamo, alla dirigenza juventina in quel momento, che poi ha scommesso su Allegri. Anche Allegri è stata una grande scommessa vinta, ed è giusto in qualche modo che Agnelli rivendichi questo insieme a tante altre cose che ha rivendicato ieri opportunamente nella sede dell'assemblea bianconera, in cui ha ricordato come il fatturato è cresciuto del 98%, come la Juve ormai sia diventata una squadra europea, in attesa dell'Inter è l'unica squadra europea in termini societari, in termini di ricavi, in termini di prospettive. Chiaramente ce ne vogliono di più di squadre italiane a questo livello. E a posto, Carlo e Piero, un altro tema, se ne parla tanto, ma appunto, come ricordavi tu, la proiezione a 170 punti delle squadre migliori ci fa capire come ci siano squilibri interni al campionato vanno corretti. Adesso sentiamo il traffico, poi parliamo con Fabio della provincia di Bergamo, lo interroghiamo subito Fabio, e poi voglio andare con le parole di Agnelli proprio su questo argomento, e avremo questa storia di Yong Gong Lee e del prestito a tasso di interesse. Sì, io non ho prestato nulla al Yong, perché qua pare che ci siano prestiti. Sì, no, ma visto che racimola anche le monetine, a quanto pare, a tassi di interesse pazzeschi, 14%. Forse converrebbe. Appunto, che economista sei? Dai, Fabio, buongiorno. Ciao, caro. Ascolta, io volevo solo intervenire per dire che lo Tito ha fatto una buttata pazzesca, e quello che è successo 2 anni fa allo Angeles Clippers, non so se ricordi, il presidente ha dovuto vendere la squadra dopo che è stato, diciamo, intercettato usando frasi razziste per alcuni giocatori del roster, ce lo ricordiamo bene, non era un presidente qualunque, ci ricordiamo quella vicenda, la maggior parte della gente, io spero, si ricorderà quella vicenda. Ci si può limitare ad osservare che l'oceano è molto largo e attraversarlo a nuoto non so se si riesce. Traffico. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Allora andiamo di corsa, perché abbiamo anche la schedina, famigerata schedina di Paolo Capuano. Facciamo partecipare anche Belinazzo. Qui chiedo invece un commento su questa battuta di Agnelli e la formula per risollevare il calcio italiano. Lo sviluppo della società e lo sviluppo del calcio italiano l'attenzione deve essere posta su due temi, che sono la riforma dei campionati, 20 squadre sono troppe, e questo è un tema che viene dibattuto anche a livello internazionale, perché a parte la Bundesliga gli altri principali campionati sono a 20 e i problemi che abbiamo noi li hanno anche loro, e le seconde squadre. Allora, campionato più ristretto e seconde squadre non fanno piega per me. Assolutamente, io credo questo, che per quello che la torta dei diritti TV e per quello che è il calendario in Italia, 20 squadre in Serie A non ci possono stare, i risultati lo dimostrano, e quindi bisogna intervenire in quest'ottica. Bisogna intervenire però anche sui criteri di ripartizione dei diritti TV per creare una maggiore competitività interna. L'Inghilterra dai diritti TV internazionali guadagnano 1,5 miliardi, insomma, al netto delle svalutazioni della sterlina. Ora, le big hanno chiesto nelle scorse settimane di avere più soldi, di avere una percentuale maggiore di questi ricavi, che oggi vengono divisi in parti uguali tra le 20 squadre. Le altre hanno detto no, e alla fine hanno accettato tutti, perché questo significa aumentare la qualità del torneo. Ora in Italia si sta discutendo molto di come cambiare i criteri. Il ministro Lotti vuole portare la parte che ora è al 40% al 50%, ed è giusto, perché in tutti i grandi campionati il 50% viene diviso in parti uguali. L'altro 50% però oggi viene diviso tra criteri molto sì. particolare. Tu ora si guarda la classifica dal 1946-47. Ecco, secondo me bisognerebbe fare questo: dare per esempio un 20% in base ai bacini d'utenza e il 30% sulla base dei risultati degli ultimi due, massimo tre campionati. Perché se ballano per esempio 200.000 euro tra il quindicesimo posto e il quattordicesimo, capisci che succede certo. poco, ma se ballano 3, 4, 5 milioni per ogni posizione nel campionato, si aumenta anche la competitività e la, no. e la voglia, insomma, di fare bene fino all'ultima giornata. Ecco, in quest'ottica bisognerebbe intervenire. Questi ragionamenti purtroppo non li sento fare. No, non li sentiamo fare, soprattutto non li sentiamo mettere in pratica. Ma questa storia degli 8,3 milioni di dollari rastrellati da Yonggong Lee compresso la Great Earn International di Hong Kong, come li mettiamo? A tasso di interesse del 14%. Beh, è fortunato che gli ha fatto un prestito così e spero insomma che abbia chiesto opportune garanzie. Certamente non può essere una garanzia il Milan, che è già impegno a Elliott. È evidente che l'operazione, ripetiamola, abbiamo detto tante volte, di Yonggong Lee è un'operazione di carattere finanziario. Lui è un intermediario, un certo. po' di soldi li ha messi, adesso se li è fatti prestare. La scommessa qual era? Andiamo in Champions, i risultati purtroppo non stanno premiando il Milan. Uno, per ottenere come il voluntary dalla UEFA, e due, per cercare nuovi soci, nuovi partner entro la prossima primavera e rifinanziare il debito. Altrimenti c'è la scadenza, insomma, di fine ottobre 2018, oppure come ha detto Fassone di recente, vendiamo due top player. Il problema è, a parte Donnarumma, quale altre top player? Scoprire che Donnarumma sta facendo una stagione eccezionale. La chiusura. E questa è la situazione, insomma. Per il resto le polemiche, secondo me, lasciano il tempo che trovano, certo. perché è una situazione, il Milan è questa, e bisogna farci conti. Dunque, schedina, signori, schedina. Vai. Vai. Dove vado? Capuano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, sì, so che... Capuano è già in vantaggio, eh? Bambini dell'asilo. Classifica, scusate... Classifica 4-2 per me, ma ha vinto Pierre domenica. Sì, okay. Sarà in vantaggio Capuano, perché io potrei a questo punto, siccome non c'è traccia, potrei barare, ma non baro. Ieri gli ho mandato un messaggio e gli ho detto Inter Samp X, lui mi ha risposto 1, volevo fare il fenomeno. Ecco, quindi siamo già 1-0. Capuano, ma lui deve dare però la seconda risposta sulla prossima partita, prego. Allora, la prossima partita è Atalanta-Verona, Pierluigi. Atalanta-Verona, quindi parto io allora? Sì. 1-1-1. 1. Tu che dici? Ma partecipa. Ci sono le doppie o le triple? No. Vai secco, dai. Atalanta, Verona. 1. Bologna-Lazio. 2. X. 2. Cagliari-Benevento. Cagliari-Benevento 1. Direi che qua 1 facile, insomma. 1-1. Plebiscito. Attenzione, Chievo-Milan. 2. 2. X. Allora, no, allora, ripetiamo. Pardo 2. No, è Berinaccio, al quale vogliamo bene, ma che sfida è stabilita. Berinaccio, questo qui è come fosse Wembley, capito? Cioè, come la chiami Coppa Inghilterra? Noi ti vogliamo bene, noi ti chiamiamo e ti stimiamo. Però questa roba, capito? Cioè, no, va bene. Prendo le distanze. Prendo le distanze. No, aspetta, no, ditemi uno per uno. Capito, cazzo, andiamo. Non ho capito niente. Vince Berinaccio. Se Berinaccio dai pronostici dimostra che è più bravo di me di Capuano, quindi ci potrebbe destabilizzare. Chievo, Milan, io ho detto 2 e Capuano X, giusto? Esattamente. E tu? Prego. 2. Perfetto. Adesso c'è ordine. Fiorentina-Torino. Chi tocca? Capuano tocca. Dai. Allora. Perdonami, Fiorentina-Torino 1. 1. X. Dice Benazzo. Genoa-Napoli, Pier. 2. X. E beh, io questo non mi pronuncio. No, muoviti. Ma che scade il tempo? 2. Juventus-Spal. 1-1-2 Dai, 1. Roma-Crotone 1-1 Anche questa mi sembra abbastanza scontata, insomma. Quindi, 1. Vabbè, plebiscito. Sassuolo-Udinese. Sassuolo-Udinese X. Io direi 2. Ah, attenzione. Ha preso nota, ragazzi? Pubblicato tutto, è tutto agli atti. Tutto benissimo. Amato. Domani qualcuno riderà, qualcun altro piangerà amaramente. Noi invece sorrideremo, saremo qui con voi alle 14. Ciao ragazzi, domani. Ciao a tutti. Giorgio De Luca, anche il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.